un pensiero che volava libero nell'aria, guidando in merce e in aria in via del tutto straordinaria. Presero l'Europa, presero New York, ed era già di moda una musica nei metrò. Con un pretesto inutile lo vennero a cercare, lui che sapeva sempre cosa dire e cosa fare. Si vide circondato da chi gli fu fedele, credendo di sognare disse bene: sapete che la guerra è una vecchia commedia, una scomoda sedia, la caccia a un nemico che alla fine tu non sai riconoscere. Gli occhi sì, parlano e poi non sanno fingere, e anche voi maschere senza più nascondere. La colpa mi dirai è un po' di tutti, ma solo qualcuno pagherà, e chi ha sbagliato ancora non si sa. Ma il caso volle che nessuno vinse la partita. Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita. E un treno sta arrivando da dietro la collina, e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro disse vero. Nel caso resto avvolto dal mistero, ma alla fine del racconto non ha una morale, niente di speciale o da farti sembrare tutta questa crudeltà un'abitudine. Possono rubare amore come se fosse loro quello che incontrano lungo il cammino. Dicono che vengono a proteggere, ma la pace che tutti aspettavano ancora non c'è. Ma scendono lacrime, contano le vittime, mentre qui parlano facce bianche dai microfoni. Ma senza aver pietà, la gente aspetterà che un'altra estate arriverà, e già si pensa al caldo che farà. Ma lassù vedo già una luce splendere, e dall'ovest fino all'est forse il giorno arriverà da te. Come per magia ancora l'allegria nei nostri cuori tornerà, e un nuovo giorno sta nascendo già, nel segno di quel mondo che verrà, nel segno di quel mondo che verrà.